Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Viaggiando lungo le strade dell'Appennino potrebbe capitarvi qualcosa di strano, per esempio di udire in piena notte i suoni di una battuta di caccia al cinghiale. A quel punto sarebbe meglio che rallentaste, e non perché stiate per impazzire o per assistere a un qualche fenomeno paranormale, ma perché potreste essere lì lì per investire un animale selvatico. Non ci avete capito niente? E va bene, allora facciamo un po' di ordine con l'aiuto di Annette Mertens, project manager e coordinatrice del progetto Life Strade, progetto europeo per la prevenzione degli incidenti stradali dovuti all'attraversamento di animali selvatici. Buonasera Mertens. Buonasera. Allora, ci spieghi subito come funziona questo che credo si chiami anche sistema Life Strade? Sì, allora, questo sistema è un sistema innovativo per il quale effettivamente è stato finanziato questo progetto dalla Commissione Europea, che funziona nel modo seguente. Dunque, se noi guidiamo per strada, fuori dai centri abitati per lo più, e un animale si avvicina al ciglio della strada, che cosa succede? Questo sistema, mediante dei sensori a infrarossi, si recepisce la presenza dell'animale e trasferisce un segnale a una centralina che fa scattare un cartello luminoso stradale per indurre i guidatori a rallentare. Se il guidatore rallenta, il sistema si ferma a questo punto. Se invece l'auto continua a procedere a velocità troppo elevata, cosa succede? Scatta una dissuasione per l'animale in modo da indurre l'animale a scappare. Questa dissuasione possono essere, appunto, come lei diceva nell'introduzione, rumori di battute di caccia, oppure ululati di lupi, oppure gente che parla. Si può usare qualsiasi traccia sonora. Insomma, se non si riesce a dissuadere il guidatore, si cerca di dissuadere l'animale. Senta, è un grave problema questo degli incidenti dovuti ad animali selvatici? Sì, è un problema innanzitutto per la fauna o per la biodiversità, perché anche se noi abbiamo dati abbastanza esigui, perché abbiamo dati solamente dagli incidenti dove c'è una denuncia. Cioè dove si fa male qualcuno, quelli veramente gravi? Esatto, però ci sono tantissimi animali piccoli che vengono investiti e ammazzati ogni anno, si conta in Italia circa 1,5 milioni di animali, per cui intanto è un problema proprio per la biodiversità. Però ci sono pure dei problemi, proprio dei problemi economici, anche di costo, certo. Di costi sia per la salute delle persone che costi finanziari. Pensi che in Italia in 10 anni si sono registrati 150 morti e centinaia di feriti, in tutta Europa sono 300 morti all'anno, e inoltre c'è ovviamente un grandissimo costo dal punto di vista economico per i danni materiali. Certo, certo. Per esempio, solo nella regione Umbria nel 2009 sono stati registrati e indennizzati 400.000 euro di danni materiali. Di danni materiali. Ecco, senta, allora parliamo del progetto, intanto chi ha partecipato e dove avete installato per ora questo sistema. Dunque, questo progetto è cofinanziato dal programma Life della Commissione Europea e coinvolge in Italia 8 enti, sono 3 regioni, Umbria, Toscana e Marche, e 5 province, Terni, Perugia, Siena, Grosseto e Pesaro Urbino. E in queste 5 province abbiamo per ora installato 14 di questi dissuasori, e ce ne manca ancora uno da installare. E qual è la copertura chilometrica finora realizzata? Dunque, noi adesso abbiamo lavorato su circa 250 chilometri di strade, però ogni sistema di prevenzione copre circa 200-300 metri, poi insieme a tutta la cartellonistica che correda, diciamo, questi sistemi di prevenzione e tutte le attività di monitoraggio e si copre un'area più ampia. In pratica voi avete concentrato i sistemi nei punti in cui si verificano più incidenti. Esatto, naturalmente. Esatto. Noi abbiamo identificato i punti più cruciali e abbiamo installato i sistemi in questi punti. Senta, che cosa farete da qui alla fine del progetto, se non sbaglio il 2017? Allora, appunto ci rimane da installare un sistema, dopodiché ovviamente abbiamo da fare tutto il monitoraggio di questi sistemi, perché come vi dicevo è un sistema innovativo, stiamo facendo una sperimentazione, per cui vogliamo capire qual è l'efficienza e l'efficacia effettivamente dei sistemi. Dopodiché continuiamo con molte attività di divulgazione proprio rivolte sia agli enti che devono gestire la problematica, sia anche ai guidatori, che sono quelli che ovviamente sono una delle concause della problematica, per indurli a rendersi conto di quale di questa problematica e quali sono i comportamenti di guida più adeguati, eccetera. Va bene, grazie a Annette Mertens. Grazie a voi. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.